di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti allo speciale viaggio tra le piccole e medie imprese in Italia. Il viaggio di oggi si sposta in Umbria, dove negli ultimi anni si è parlato più di distretti sismici che di distretti produttivi. Ma ora si parla anche di ripresa. In quel territorio ferito tra Umbria e Marche, che il terremoto ha messo in ginocchio tra aziende alimentari e concerie che esportano per oltre 500 milioni di euro, ma non solo, l'economia colpita e ferita dal sisma a cavallo tra Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo riproduce la mappa del sistema produttivo italiano, e cioè un mix tra la manifattura d'eccellenza, come quella dei distretti industriali in Umbria, con il distretto cartario di Città di Castello e quello dell'abbigliamento di Perugia, a fianco di medie, piccole, micro aziende, anche queste spesso d'eccellenza nei settori dell'agroalimentare, della valorizzazione del territorio e del turismo. Un tessuto fatto di oltre 11.000 aziende che danno lavoro direttamente a 40.000 occupati, senza contare l'indotto. Un territorio sempre allerta dal primo sisma del 24 agosto, ma che non si dà per vinto, come il primo albergo storico dell'Umbria, che a Norcia, in provincia di Perugia, dopo il terremoto in centro, ha riaperto i battenti ad aprile e rinasce dopo aver resistito anche alle scosse il cinquecentesco Palazzo Seneca, la prima struttura alberghiera ad aprire in Umbria nel Novecento e ora la prima del territorio ferito dal terremoto del 30 ottobre scorso, che torna all'attività dopo un lungo restauro con un forte adeguamento sismico ed estetico. È una ripartenza naturale per un edificio già molto abituato a resistere nei secoli, spiega Federico Bianconi, ultima generazione della famiglia di imprenditori, proprietaria che possiede 5 alberghi in città e fa ristorazione dal 1850. E per Federico Bianconi è un'iniezione di fiducia all'economia del territorio. Tanta fiducia, tanta determinazione e tanta voglia di proseguire a Norcia, nel senso che grazie a Dio Palazzo Seneca non aveva mai avuto danni, è stato dichiarato immediatamente agibile anche dalla protezione civile e dai primi sopralluoghi. Soltanto però nella nostra via l'auditorio di San Francesco ha avuto un problema sul tetto che è caduto all'interno, e per venire a Palazzo Seneca si passa o davanti a San Francesco o nella piazza, dove tutti purtroppo abbiamo visto i danni causati a San Benedetto. Quindi era un problema di accessibilità, era in zona rossa. Ecco, da questo punto di vista, quanto tempo ci è voluto e diciamo che capitale? Tempo con il quale i vigili del fuoco e la protezione civile hanno messo in sicurezza la facciata e le parti laterali della chiesa di San Benedetto e idem per la chiesa di San Francesco. Quindi più che investimenti sono stati mancati introiti. Per quanto riguarda gli ospiti, sono già arrivate delle prenotazioni? Grazie a Dio sì, abbiamo invitato alcuni tour operator americani che collaborano con noi da molti anni, che ci avevano rinnovato la fiducia, o due dei quali, Culture Discovery e Backroads, ci hanno già sottoposto dei contratti per il 2018 con nuove date. Da questo punto di vista, le altre aziende del territorio come stanno reagendo? Voi siete, come dire, la punta, diciamo, di questo iceberg, il diamante. Siamo più che altro l'azienda più grande della zona a livello turistico e forse anche dell'Umbria, perché abbiamo tutti a Norcia, in totale abbiamo 5 alberghi, 3 ristoranti e un centro sportivo. Palazzo Seneca è l'unica struttura che è riuscita a riaprire, gli altri purtroppo avranno tempi un pochino più lunghi. Per esempio il nostro ristorante storico, da dove tutto è nato, il Granaro del Monte, riusciremo a delocalizzarlo per l'estate. Il Grotta Azzurra, l'albergo storico, riaprirà la primavera del 2018, gli altri hanno danni un pochino più importanti e quindi avranno tempi 2019-2020. Per quanto riguarda le altre strutture, quelle dell'agroalimentare, in modo particolare le produzioni, grazie a Dio di salumi e prosciutti, stanno continuando, hanno avuto nel periodo natalizio un momento di grande visibilità, ora siamo rientrati un pochino nella media e grazie a Dio hanno dato la possibilità agli agricoltori di accedere a Castelluccio e quindi poter effettuare la semina, che determina anche la fioritura di giugno-luglio. Non basterà poco per ritornare ai ritmi a cui eravamo abituati nel 2016, serviranno sicuramente anni, ma un passo per volta andremo avanti. Quali erano i vostri livelli di fatturato prima e quali, insomma, volete sperare di avere adesso? Fatturato che avevamo prima, il 2016 si proiettava come essere l'anno di tutti i nostri record sotto tutti i punti di vista, e avevamo una proiezione sul fine anno di circa 7 milioni di euro. Oggi forse arriveremo a 1,5 se saremo bravissimi. fare rete con il territorio e soprattutto dopo questo evento. Voi che cosa avete fatto, anche che tipo di relazione c'è con il vostro distretto, il vostro territorio? Noi siamo quello che il territorio offre. Noi abbiamo sempre collaborato con tutti i piccoli produttori perché abbiamo ritenuto che l'autenticità del nostro territorio e l'economia del nostro territorio doveva essere esportata in giro per il mondo. Quindi molti nostri tour già da anni prevedono la visita dei nostri fornitori del ristorante, quindi andiamo a trovare il nostro allevatore di maialini che ci dà i prosciutti e i salumi, andiamo a trovare l'azienda che produce il miele, quella che produce per noi il caprino, l'altra che produce lo zafferano, e portiamo a capire, a vedere quanto sono speciali i prodotti che serviamo nei nostri ristoranti. Per certo. Noi la destinazione è tutto, noi senza la destinazione non siamo nulla, perché saremo un semplice albergo interessante, come ce ne sono migliaia in Italia, ma la nostra differenza è il territorio, la nostra comunità è quello che rappresenta. A proposito di comunità, voi avete anche riassorbito delle persone, da 130 che erano siete riusciti a assorbirne 60, in ogni caso magari è una cosa in aumento. Che attenzione avete al personale, al welfare? Totale, abbiamo iniziato, ci sono state assegnate le mense nei container, perché eravamo l'unica azienda sul territorio che poteva sopportare questa organizzazione, perché sono 10 container divisi nelle varie frazioni, 5 a noce, 5 nelle varie frazioni, quindi abbiamo prima dato precedenza alle famiglie con i bambini, poi alle coppie, alle famiglie senza bambini e poi ai singoli, alle persone normali. Quindi ci auguriamo di poter addirittura andare sul mercato a cercare nuovo personale, oltre a riaver integrato tutto quanto quello precedente. Non amiamo il turnover, quindi ringraziamo tutto lo staff che è con noi da oltre 40 anni, 30 anni, 35 anni. Per noi preferiamo costruire con le persone, quindi fare progetti a lungo termine. Un distretto, quello dell'Umbria, dove il piccolo è ancora bello e possibile, anzi necessario, e dove si va oltre il tradizionale. Vetria, società italiana della digital economy, che si occupa dello sviluppo di piattaforme e servizi digitali, ad Orvieto ha la sua sede all'interno di un corporate campus, costruito su ispirazione del campus della Silicon Valley, un centro ad altissima tecnologia dove lavorano i giovani dipendenti, età media 33 anni, senza orari fissi e con la piena libertà di decidere quando lavorare. Il campus è stato infatti progettato proprio per dare al lavoratore dipendente la miglior working experience. E Vetria è nata in piena crisi, come racconta il suo fondatore e presidente Luca Tomassini, cavaliere del lavoro. Siamo andati in controcorrente per il semplice fatto che nel 2010 era un anno, devo dire, molto molto particolare, soprattutto per la creazione delle imprese. C'era stato il crack della Lehman Brothers, cominciava ad arrivare l'onda dagli Stati Uniti di tutto quello che era crisi economica, soprattutto delle banche, per cui lei si immagini a partire da zero con una nuova impresa e farlo nel nostro paese, in Italia. Io ero uscito come Senior Vice President di Telecom Italia, dal gruppo Telecom Italia, e nasce l'idea di sviluppare servizi digitali, un mondo che lo ritengo all'inizio, perché il mondo digitale sta investendo tutti i segmenti della nostra società. Diciamo che il vostro inizio è stato non virtuale, ma molto reale, molto attaccato alla realtà, diciamo un impatto forte in un momento anche in cui la crisi impazzava. L'idea da dove è partita, che cosa avete voluto inventare? Abbiamo voluto inventare la distribuzione dei contenuti attraverso internet e riscrivere tutto quello che è il mondo della televisione inizialmente. Significa andare a distribuire video live, on demand, audio e contenuti, immagini di qualsiasi tipo, quindi qualsiasi tipo di contenuto, sfruttando la rete internet. E questo lo abbiamo impostato sin da subito a livello mondo, seppur piccola cittadina come Orvieto, dove risiede il nostro corporate campus. Chi vi ha aiutato a sviluppare l'idea e come restituite la comunità del territorio? Noi non abbiamo mai utilizzato fondi europei, finanziamenti regionali, siamo andati avanti sviluppando le nostre idee, che si sono evidentemente estese anche a tantissime altre cose, e impiegando un modello di business totalmente diverso dalle società che operano nel mondo del digitale. Quali numeri state facendo adesso? Guardi, noi abbiamo chiuso il 2016 a poco meno di 60 milioni di euro, siamo una società quotata in borsa di Milano, mercato AIM, abbiamo fatto la quotazione lo scorso anno. Siamo presenti un po' in tutto il mondo in termini di servizi, perché copriamo praticamente il 50% dei paesi europei, siamo presenti in Malesia per tutto quello che è il mercato del sud-est asiatico, siamo presenti negli Stati Uniti a Palo Alto e in Silicon Valley, siamo presenti in termini di servizi in Sud America e stiamo sviluppando una estensione importante di quella che è la politica di internazionalizzazione dei nostri servizi. Numeri di export? In questo momento siamo intorno al 20%. Data la dimensione della, anche internazionale, della vostra azienda e diciamo amplissima in tutto il mondo, quindi globale, ecco, qual è invece la vostra attenzione verso i dipendenti, il web, la comunità che guidate? Ma è pressoché totale. Il mondo del digitale oggi può essere sviluppato in qualsiasi parte del mondo. L'importante è essere connessi ad alta velocità al mondo della rete. Stare ad Orvieto, in Umbria, al centro d'Italia, piuttosto che stare a New York, francamente non cambia niente. Avete intorno le campagne? Come siete posizionati? Siamo intorno tutte campagne. Dalla mia stanza in questo momento io vedo delle vigne, vedo dei campi di girasole. Abbiamo costruito nel 2014 un corporate campus, possiede all'interno un mini club per i figli dei dipendenti, un'area relax, campi da tennis, campi da calcetto, pista running, persino l'estetista. E poi, risolvendogli i problemi giornalieri spiccioli, come ad esempio andare a pagare le bollette piuttosto che i vestiti in lavanderia, abbiamo dei servizi che hanno l'obiettivo di rendere il dipendente felice, perché se il dipendente è felice l'azienda funziona decisamente meglio. Questa e altre storie in anteprima, inedite in versione long, ma anche idee e novità per l'impresa, potete trovarle sul sito di Radio 24, www.radio24.it, cliccando sulla pagina di programma Voci d'Impresa e curiosando nella sezione Extra, dove potete scriverci i vostri messaggi e le vostre storie. Voci di Piccola Impresa su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, e il blog e il download sono sempre su www.radio24.it. Un saluto da Anna Marino.